figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentrovati a tutti da Valentina Furlanetto. Oggi parliamo di donne, donne che non hanno la patente, che vivono magari segregate in casa, che si rifiutano un pretendente, magari rischiano anche la vita. Oggi partiamo da una ragazza giovanissima. Si chiama Nazrin Sharif. A 25 anni, quando era poco più che una bambina, a 13 anni, venne sfigurata dall'acido gettatole addosso da un pretendente rifiutato. Da allora gli occhi di Nazrin non vedono più. È stata aiutata dall'associazione Smile Again ed è riuscita ad operarsi. Il suo aspetto, dopo lunghe e dolorose operazioni, è migliorato, ma lo sguardo è ancora e per sempre spento. Ora vive in Pakistan. Il suo sogno però è tornare in Italia, dove ha studiato qualche anno. Io sono 13 anni. Uomo, e lui vuole sono sposare con me. Un uomo che ti voleva sposare quando tu avevi 13 anni. Sì, io lavoro con padre con campagna. E lui sono, quando io sono 13 anni, lui sono 25 anni. Cioè, quest'uomo quando tu avevi 13 anni aveva 25 anni. Sì, e lui sono sia tanto ricco. E mio madre e padre sono non è ricco. E poi sono io quando lavoro con padre e lui sempre vengo con me, mi fare litigare, sono tante cose lui fatto con me. Poi sono venuta lui da madre padre casa mia e parlato con mio madre padre che noi voglio sposare Nasrin, sono figlia con me, no? Mio madre padre ha detto che Nasrin ancora c'è bambina, noi no ancora. Voglio sposare. Noi sono notte dormito, mi è venuta a casa mia. Mi ha buttato acido, poi sono io subito già bruciato, non mi vedo occhio, non niente. E mi ha portato subito alle mattina e io sono uno anno all'ospedale. Tu sei stata un anno all'ospedale? Sì, sì. Poi è andata a Italia. Uno anno non ho parlato italiano, non capisce inglese, non italiano, sono sempre piange, non mangio, uno come animale. Piano, parlato italiano, poi sono, conosco le altre persone, poi sono, io penso che come c'è Italia, mio sono genitori. Che l'Italia è come la tua mamma e il tuo papà? Sì. Tu speri di tornare ancora in Italia? Io voglio tornare in Italia. Tu hai imparato quindi il linguaggio Braille per sì. Leggere e quindi hai iniziato sì. Anche a studiare. Sì, mi piace leggere e scrivere. Che cosa ne è stato del uomo che ti ha gettato l'acido? È andato in prigione? È ancora libero? Quando sono io bruciata, mia madre e padre è andata a polizia e loro hanno pagato soldi. Cioè, hanno pagato dei soldi alla tua famiglia? Per... No, no, mia famiglia, pagato polizia. Hanno pagato e quindi a lui non è successo nulla? No, no, no, niente, no. Prima di commentare avviene in Pakistan, questo da noi non potrà mai accadere, bisogna ricordare che fino a 50 anni fa anche in Italia esisteva la pratica di sfigurare le donne con sostanze abrasive perché magari rifiutavano un pretendente. Bisogna anche pensare a tutti i casi poi quotidiani in cui ancora oggi la cronaca ci racconta di donne uccise perché hanno lasciato il marito o il fidanzato. Dal Pakistan però ora ci spostiamo in Senegal. Cambiano le pratiche, ma non la violenza con le quali vengono portate avanti. Kadi Koya, presidente dell'associazione La Palabre. I'm from Senegal, West Africa, and I know what's happening there. In many villages they continue to do it. Io sono senegalese e posso raccontare quello che succede lì. In molti villaggi è ancora una pratica diffusa tagliare il clitoride delle donne. Bisogna che cambi la mentalità perché molte persone dicono è la nostra religione, è la nostra cultura. La nostra battaglia è far capire alle donne più anziane che non è necessario farsi tagliare il clitoride per essere donna. È molto difficile, perché ci sono pressioni sociali e familiari e ovunque molti imam usano la religione per fare pressione sulle donne. Dicono che non possono leggere, non devono andare a scuola. Molte si convincono che quella sia la loro religione, ma non è così. Lo dicono perché sono ignoranti. Accettano la situazione perché non hanno alternativa e non sanno cosa accade in altri paesi. Quando torniamo in Senegal, molti uomini ci dicono che siamo donne che vivono in Europa, che siamo diventate donne europee e ci rifiutano. Ma noi dimostriamo che siamo africane come loro. Siamo anche religiose. Io, ad esempio, sono musulmana, ma crediamo in quello che facciamo. Siamo donne e il nostro corpo ci appartiene. Provo a raccontarvi un caso concreto. Conosco una ragazza africana che viveva in Europa. È tornata nel suo paese, in Africa, in vacanza, e l'hanno tagliata e costretta a un matrimonio forzato. Ora lei è in un villaggio, ma tornerà tra pochi giorni perché abbiamo lottato per lei e abbiamo vinto. She will be back in few days because we're fighting for that and we will win this fight. Non esiste solo la violenza fisica. In Arabia Saudita, ad esempio, le donne che lavorano come giornalista sono discriminate perché gli uomini negano loro, pensate, le interviste, si rifiutano di parlare con una donna. Sentiamo la testimonianza della reporter dell'Arabia Saudita Samar Al-Mogren. Oltre alla violenza fisica, di cui però purtroppo mancano statistiche che mi consentano di dare un'idea generale della diffusione del fenomeno nel paese, esiste ed è molto sentita la violenza psicologica che si traduce in divieti alle donne. Per esempio il divieto di guidare l'automobile che vige in Arabia Saudita o l'impossibilità per le donne di entrare in alcuni settori che restano esclusivo monopolio degli uomini. Nel lavoro, per esempio, bisogna lottare, ma anche diffondere una cultura dei diritti, perché non tutte le donne saudite sono consapevoli dei propri diritti. I diritti non vengono dati, vanno strappati. In Afghanistan ci eravamo illusi che le cose per le donne andassero un po' meglio con la caduta dei talebani, ma diversi segnali dicono il contrario. Non ultimo il varo da parte del presidente Karzai poche settimane fa della legge che impone alle donne sciite di avere rapporti sessuali con i propri mariti, pena la sospensione del cibo. Si fa poche illusioni anche Fawzia Khoff, membro del Parlamento afghano. The situation of woman... is so difficult. Penso che la situazione delle donne sia estremamente difficile in Afghanistan e penso che non spetti solo a loro fare qualcosa, ma anche al governo e alla comunità internazionale. Penso che il nostro governo debba fare degli sforzi per migliorare la situazione con tutto il denaro che voi occidentali state dando all'Afghanistan per i diritti umani e in particolare i diritti delle donne. La comunità internazionale deve assicurarsi che il denaro che arriva al governo di Kabul sia effettivamente impiegato per i diritti delle donne e che gli impegni presi siano rispettati. Le donne afghane fanno la loro parte, hanno messo le loro vite in pericolo. Qualche giorno fa abbiamo manifestato in strada per i diritti delle donne. Ma cosa ce ne viene? Abbiamo soltanto ricevuto in cambio minacce e security warning, allarmi per la nostra sicurezza. Recentemente una donna è stata uccisa in strada in Afghanistan. Era membro di un consiglio provinciale e un attivista dei diritti umani. Quando tiriamo fuori la nostra voce in Parlamento riceviamo avvertimenti e minacce. In genere arrivano via SMS con lettere o telefonate. Parla di donne che tentano di riacquistare dignità e libertà anche il film iraniano premiato una settimana fa al Festival del Cinema di Venezia con il Leone d'Argento e con una menzione speciale dell'UNICEF per l'attenzione che dedica ai soggetti deboli come appunto le donne e i bambini. Si intitola Women Without Men. È ambientato in Iran nel 1953 sullo sfondo tumultuoso del colpo di Stato e racconta i destini di quattro donne che convergono in un bellissimo giardino di orchidee dove troveranno indipendenza, conforto e amicizia. Chi l'ha visto dice che è molto molto bello. La regista è la videoartista iraniana Shirin Neshat e l'ha intervistata per noi a Venezia Marta Cagnola. Courage, I think this prize means Per il mio coraggio. Ho avuto il coraggio di fare questo film con molte difficoltà. Coraggio anche simbolicamente, perché il film parla delle donne che hanno la forza di prendere in mano il loro destino e di vivere la loro vita liberamente. È un forte messaggio, credo, per le donne nel mondo, ma anche per le donne in Iran. Noi iraniani abbiamo vissuto così a lungo sotto dittatura che abbiamo imparato a parlare in modo simbolico e metaforico per esprimere ciò che non possiamo dire. Women Without Men esprime tutto questo. C'è il coraggio di donne e uomini di chiedere la libertà anche rischiando l'insuccesso. E questo film davvero ne è una testimonianza. Un ringraziamento a Marta Cagnola, a Chiara Di Michele e a tutte le colleghe che hanno prestato la loro voce per i doppiaggi. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Thank you.